Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fosca, allunga di 7-8 centimetri il passo perché non si è all'unisono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Raniero e Fosca, siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Certamente sì. Sì. Io, Jessica, prendo te Ivano come mio... Ma che te sei leggiando? Attenzione. Io, Ivano, prendo te, Jessica, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della vita mia. Io, Jessica, prendo te, Ivano, come mio sposo e prometto di esserti felice sempre nella... Fedele! Fedele, fedele. Fedele, oh, già ce provo! Beh, mi sono sbagliata. Ti sbagliato pure te. E vissero felici e contenti. Tutte le favole finiscono così, ma noi vogliamo andare a vedere che cosa succede realmente dopo. La vostra vita, da quando siete diventati una coppia stabile, com'è cambiata? Che cosa avete guadagnato? Che cosa avete perso? 800 24 00 24. Forse la convivenza vi ha portato qualche chilo in più. Andiamo a sentire subito che cosa dice una ricerca. Il matrimonio rende pigri. Le coppie sposate mostrano un progressivo disinteresse nei confronti dell'esercizio fisico. A puntare il dito sulla pigrizia coniugale è uno studio del Ministero della Salute inglese. Chi si sposa difficilmente trova il tempo e la voglia di praticare i 150 minuti di esercizio fisico raccomandati alla settimana. E quando la voglia di fare sport scende, l'ago della bilancia sale. Buongiorno al dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS, dimensione dello sport di Settimo Milanese, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Poi mi avete subito conquistato con delle clip da uno dei miei film più amati, perché credo che sia veramente un capolavoro assoluto questo film di Verdone, quindi adesso sono assolutamente ben disposto. Lei è sposato da molti anni, vero dottor Confalonieri? No. No. Nonostante? Io mi sono sposato molto tardi, ho avuto figli molto tardi, nonostante questo sono sicuramente in leggero sovrappeso. Senta, ma secondo lei è vero, lei che vede anche molte persone che vengono a fare attività fisica, il matrimonio impigrisce? Sì, secondo me è sicuramente vero, cioè ci sono due situazioni legate a ciò che io conosco meglio che caratterizzano il matrimonio, poi su questo vorrei provocare i nostri ascoltatori, se non sono d'accordo voglio proprio che mi smentiscano, però la prima è che sicuramente si fa meno attività fisica, nel senso che l'attività fisica molto spesso è anche una sorta di compenso, è una sorta di tempo che dedichiamo a noi stessi perché non troviamo altre gratificazioni, e quindi col matrimonio ne dedichiamo un po' di meno, abbiamo altre gratificazioni, quindi oltre ad avere meno tempo ci alleniamo sicuramente meno. La seconda è legata al fatto che col tipo di organizzazione della vita attuale, questo lo dico dai confronti che ho quotidianamente con le persone che vengono da me perché sono in sovrappeso, è chiaro che la cena diventa il momento che condividiamo col compagno, con la compagna, con la moglie, col marito, e quindi dedichiamo una giusta attenzione alla cena e a questo momento, che significa mangiare bene, forse mangiare troppo, bere la bottiglia giusta. E non voglio dire che sia sbagliato in assoluto, su questo potremmo aprire un'altra discussione, però indubbiamente il matrimonio a questo punto si accompagna con una diminuzione di attività, con una cena, quindi un pasto critico di per sé, perché poi è seguito dalla notte, ad alto contenuto calorico, e quindi indubbiamente il matrimonio favorisce l'aumento di peso e la diminuzione di efficienza fisica. Eppure, caro il mio dottor Confalonieri, vincere la pigrizia potrebbe aiutare non solo a mantenere il peso forma, ma anche ad avere una migliore intesa nella coppia, a proteggerne la salute. Ne parliamo col dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Dottor Rossi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Allora, ci si sposa, molti vanno anche prima di incontrare l'anima gemella, si incontrano le anime gemelle anche in palestra, facendo attività fisica, poi insomma ci si innamora, no? Dottor Spessissimo, noi abbiamo proprio tantissime coppie che si sono conosciute all'interno del nostro centro sportivo e hanno iniziato una relazione lì. Difatti facciamo proprio anche una sorta di festa che raduna tutte queste coppie che si sono conosciute in palestra piuttosto che in piscina. Dottor Rossi. E poi succede che si aumenta di peso ed un interessantissimo studio di qualche tempo fa che dice che le donne in sovrappeso non si piacciono, hanno una bassa autostima e in modo particolare hanno una pessima vita sessuale. E le donne che invece cercano di dimagrire migliorano moltissimo la propria vita sessuale e anche la partecipazione emotiva nella vita sessuale con i propri partner. Quindi questa è una cosa assolutamente interessante. Come è assolutamente interessante pensare che una giusta attività fisica è assolutamente di sostegno per l'attività sessuale, perché ovviamente l'attività sessuale è un'attività aerobica, blanda, ma un'attività aerobica. Ma un'attività fisica migliora la produzione di testosterone, che quindi serve per il desiderio, produce le endorfine, che sono sempre estremamente utili. Cioè, riequilibra i neurotrasmettitori e gli ormoni, e tutto questo serve tantissimo ad avere una buona intesa sessuale. Almeno 150 minuti di attività fisica, di esercizio fisico durante la settimana, dottor Confalonieri. Questo è quello a cui dobbiamo tendere per rimanere in forma e per avere anche una buona intesa sessuale, come ci ricordava il dottor Rossi con il nostro partner. Volevo tornare rapidissimamente su questo tema perché mi trovo totalmente d'accordo, nel senso che io purtroppo ho dei riscontri che sono soltanto empirici, non sono scientifici come quelli del dottor Rossi, però indubbiamente la criticità che insorge per tanti a un certo punto del matrimonio è proprio il decadimento fisico, la riduzione dell'attrazione, e tanti vengono proprio per recuperare questi due aspetti. Poi, rispetto al fatto che l'attività sessuale sia prevalentemente aerobica, mi permetto di dire è prevalentemente aerobica perché è capace di gestire l'attività sessuale. Per tanti di noi spesso è un'attività di tipo anaerobico, quindi molto breve, molto intensa e che si esaurisce in tempi assolutamente contenuti. Dottor Rossi, lei è d'accordo? Guardi, stavo sorridendo quando sentivo il dottor Calzalinieri che diceva questo, perché se penso che la media di durata di un incontro sessuale in Italia è 2 minuti, è vero, possiamo più pensare a un'attività anaerobica piuttosto che aerobica. Sì, comunque però, sono assolutamente. Però dobbiamo tendere a trasformarla da attività anaerobica, sì, ad attività aerobica. Allora, è certo che dobbiamo fare questo, anche perché noi dobbiamo pensare che proprio in virtù del fatto che le coppie stanno insieme da tanto tempo, la seduzione reciproca necessita di dare tanto spazio e tanto tempo ai preliminari e non ridurre la vita sessuale solamente a farlo, diciamo così, tra virgolette. Quindi bisogna considerare proprio il momento in cui l'attività è un'attività gioiosa e di gioco e di divertimento. Grazie dottor Rossi per essere stato con noi, buona giornata. Molte coppie giovani sottovalutano le responsabilità e i problemi che nasceranno, come la convivenza nella stessa casa, lì. Te litighi quando sei fidanzato, ognuno a casa sua? No, stai lì. E molti sottovalutano la convivenza, molte coppie giovani dicono no, ma a noi la convivenza non ci spaventa perché tanto è tanto che andiamo in vacanza insieme. No, no, se quello è il tuo metro di paragone, te sei dentro una smart con gli sportelli sigillati, capotato in un fosso pieno d'acqua, il 118 in sciopero, i pompieri passano e non ti vedono. Insomma, in due la vita cambia, mettete su un piatto della bilancia quello che la convivenza vi ha dato, sull'altro quello che vi ha tolto, i compromessi che avete dovuto fare e accettare. Non vorrei però che l'elenco fosse troppo lungo, allora vi chiedo una sintesi, 3 cose positive, 3 cose un po' negative, compromessi. Diciamo che 3 sarebbe l'ideale, ma ci accontentiamo anche di una per chi non gli manca la fantasia. Cosa vi ha cambiato in peggio, cosa vi ha cambiato in meglio in termini di benessere? 800 24 00 24 in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Francesco Aquilar, psicologo, psicoterapeuta cognitivo, uno dei nostri esperti del Daily Lab. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori e ai nostri ospiti. Abbiamo sentito una clip di Giacobazzi, insomma la convivenza può essere dura. Assolutamente, però può essere dura, soprattutto nel rapporto, come si notava nella clip, tra le aspettative e i risultati. molti fattori negativi sono legati ad un eccesso di aspettative o ad aspettative completamente irrealistiche. Dottor Aquilar, l'ho perso. Abbiamo un problema di linea con il dottor Aquilar, ma intanto che voi ci chiamate all'800 24 00 24, noi abbiamo chiamato Carla Signoris, che è in linea con noi. Ciao Carla! Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Io sono molto felice di averti in linea con noi. Sono attrice, scrittrice che io amo in modo particolare. Due libri, due successi editoriali, Ho sposato un deficiente, Dietro ogni uomo c'è sempre una donna che alza gli occhi al cielo, e Meglio vedove che male accompagnate, sempre Rizzoli Editore. Carla, tu insegni, ci insegni a ridere degli uomini, e gli uomini dovrebbero esserti grati. Sì, alcuni lo sono, devo dire, i più intelligenti, mi viene da dire anche. Però no, io a proposito dell'argomento di oggi, io sono assolutamente una sostenitrice della vita di coppia e della vita anche di casa. È vero che ti toglie delle cose, ma è vero che te ne regala tantissime altre. Se riesci a riderci sopra anche delle cose che certi giorni ti fanno ridere, certi giorni ti fanno disperare e imbestialire. La tua ricetta è ritrovare, e nei tuoi libri lo insegni, a riscoprire il piacere dell'ironia, che è un magnifico salvacoppia. Sì, io credo di sì, perché aiuta ad alleggerire anche la pesantezza della vita di tutti i giorni. Noi corriamo, io non so, faccio... Mi sembra di essere un taxi certi giorni, anziché una mamma, una moglie, una madre, insomma. Andiamo sempre e sempre comunque di corsa, e la vita di coppia e la vita in casa comunque dovrebbero essere, certe volte ci riesce, ad essere un momento di pausa, di serenità. Senti Carla, noi abbiamo iniziato la trasmissione con i dati di una ricerca che dicono che il matrimonio rende pigri e fa accumulare un po' di peso. Tu invece sei sempre in forma smagliante. No, no, io sono pigra da morire, ma chi mi vede girare per Genova, la città dove vivo, che vivo praticamente vestita sempre in tuta e dicono quella passa la giornata in palestra. Invece... E piuttosto che andare in palestra mi ammazzo. No, no, assolutamente. Peraltro la vita di è vero comunque che gli uomini il giorno dopo, mio marito, il giorno del matrimonio pesava 70 kg, il giorno dopo 90, ma io cucino malissimo, quindi non... Forse è vero quello che dicevano i tuoi ospiti, anzi sicuramente è vero, che si impigrisce forse, o forse è semplicemente che col passare degli anni si tende anche a, insomma, a gratificarsi di un più. Un pochino di più. Sì. Senti, una cosa che ti ha sorpreso della, quando hai iniziato a la tua convivenza, nel corso degli anni, che cosa ti ha sorpreso, che cosa non ti aspettavi? Di positivo, di negativo? Dunque, cosa mi ha sorpreso? Ma tutti i giorni mi sorprende. Io ho un marito che tutti i giorni mi sorprende, e che tutti i giorni mi fa un po' ridere, tutti i giorni mi fa un po' arrabbiare, e di questo sono consapevole di essere molto fortunata, naturalmente finché dura, perché poi sai, non bisogna mai dare nulla per scontato e bisogna sempre un po' lavorarci sulla coppia. Una cosa che mi sta sorprendendo positivamente in questi ultimi tempi, avendo nella possibilità, dormiamo in camere separate. E questo per... Ognuno ha la sua camera, ma non sai che piacere ritrovarsi. Allora, questo è un buon consiglio, ad avere una stanza, ad avere la possibilità di separare un po', di avere due camere, e poi ci si riunisce, ci si incontra con più piacere. Possiamo darlo come consiglio alle nostre amiche a casa? Assolutamente sì, naturalmente bisogna avere la stanza, insomma, però... Certo, perché non possiamo farlo dormire sul divano? No, sul divano no, pare no. Brutto, dicono che è brutto. Dottor Aquilar, vorrei sapere la sua impressione, camere separate per chi ha lo spazio possono aiutare? Sì, in certi casi sì, perché l'innamoramento e tutta la costruzione della relazione nasce sostanzialmente per andare contro tre emozioni, la solitudine, la tristezza e la noia. e rispetto a questo poi le persone possono avere delle scelte e delle preferenze diverse. Se stare in camere separate aumenta il senso di allegria, rende meno noiosa la situazione perché ci si incontra di più e consente quella distanza ideale tra le due persone che protegge dalla solitudine senza dare oppressione, e allora per quelle persone va benissimo. È altrettanto piacevole invece per altre persone che preferiscono avere una distanza più breve e dormire insieme. È la legittimità della differenza. La legittimità della differenza. Carla, se hai un attimo di tempo ancora, voglio presentarti Mirella che ci chiama all'800 24 00 24 da Milano. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Niente, io volevo intervenire sul discorso della vita di coppia, quello Brava. Che regala e quello che toglie. Mm. Allora, personalmente io ho un'esperienza meravigliosa. È ormai 5 anni che vivo fuori casa, quindi ho lasciato i miei genitori per vivere col mio compagno. Adesso abbiamo anche una bimba di quasi un anno. Sì. E la mia esperienza, ripeto, è un'esperienza molto positiva. È una coppia ben assortita, la nostra almeno, così credo. Riusciamo a compensarci. Sicuramente stare a casa con i genitori è molto più comodo da quel punto di vista. Quello che ti viene tolto è un po' di comodità, perché tante cose non hai voglia di farle tu, c'è qualcun altro che le fa al posto tuo. Esatto. Invece però spesso, secondo me, la coppia la vita di coppia regala tantissimo, perché io ho scoperto delle affinità con il mio compagno che prima non credevo, non sapevo di avere. Ho scoperto la bellezza di fare delle cose a due e non a tot persone, perché tante volte quando si vive in casa si cerca di creare un grosso gruppo, no? Cioè sì, è brutto fare una cosa ed evitare la gente, cioè si cerca di accorpare un po'. Invece la solitudine, diciamo, della coppia tante volte, almeno per quanto mi riguarda, è molto bello. Io ripeto, per me vivere in coppia è bello, mi ha dato tanto, non credo che mi abbia tolto niente. Anche la libertà è rimasta comunque, se si è capaci di prendersi i propri spazi e se si è generosi nella coppia. Cioè non bisogna essere possessivi e dire no, tu questo non lo fai. Se si decide di vivere insieme, si decide di dare fiducia all'altra persona, e finché la fiducia non viene tradita è anche assurdo e stupido, certo, dire no, non farlo a priori perché potresti, per quanto mi riguarda. Grazie Mirella. Carla, che ti sembra? Sono assolutamente d'accordo con la signora, e io ormai sono sposata da 20 anni e mi è andata bene, sono contenta. Ma ripeto, finché dura, mai bisogna darsi per scontati reciprocamente, credo. Parola di Carla Signoris. Grazie Carla, ti aspettiamo qua in Grazie studio a presto. Voi. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Abbiamo Caterina che ci chiama dalla provincia di Bari. Buongiorno Caterina. Buongiorno, vorrei parlare della vita di coppia. Sì. Ecco, vorrei raccontare un po' la mia storia. Lei dorme in letti separati o no? No, no. Un lettone. No. Dunque, io sono sposata da 23 anni, felicemente sposata, alti e bassi, però insomma come in tutte le coppie, no? E penso che bisogna rinnovarsi e avere sempre delle idee nuove. Io da quando pratico attività fisica, da 2 anni, devo dire che ho tratto beneficio, perché è migliorata sia bene con me stessa ed è anche migliorata la vita di coppia. Vede, proprio come ci diceva il dottor Rossi. Dottor Confalonieri, attività fisica da soli o in coppia? Ma io ho 2 considerazioni molto brevi rispetto a tutto quello che ho sentito fino adesso. Attività fisica da soli, separerei gli aspetti. Allora, letti separati, attività fisica separata. Letti separati ci può stare, letti separati ci può stare, perché ogni volta si tratta di riconquistare la propria compagna. Se la trovi di fianco, dai per scontato che sia lì. Allora, se la vai a cercare, la devi riconquistare ogni sera. Quindi mi sembra intrigante. Ma al di là di questo, sarò molto sintetico. Attività fisica separati, perché comunque ciascuno deve conservare un proprio spazio, non dobbiamo condividere tutto, e quindi occuparci di noi deve essere qualcosa di nostro e non di condiviso, che facciamo anche per l'altro, certo, ma che scegliamo noi di fare. E poi un piccolissimo consiglio rispetto alla problematica dell'aumento di peso e del diamolo fatto... dopo, perché adesso andiamo a sentire i mercati che magari ci fanno dimagrire. Me lo tengo pronto, aspettatemi però, perché è un consiglio veramente utile. Insieme ai consigli del dottor Aquila ci sentiamo dopo i mercati e il meteo. Mi raccomando, nel frattempo potete anche andare a leggere i consigli del nostro Daily Lab. Essere e benessere. Ma la convivenza, care amiche, cari amici naturalmente, ci aiuta a stare bene? 800 24 00 24. Il dottor Confalonieri è qua in studio con me, felice e morbido, devo dire. Adesso non esageriamo con un po' morbidello. Che cosa? Si fanno un'immagine di me distorta. Mi dica lei tre cose buone della convivenza, tre cose che ha guadagnato e magari qualche compromesso che ha dovuto accettare. Beh, intanto un equilibrio e quindi un minor ricorso ai vizi compensatori. Già, mi sembra importante. In secondo luogo, un'alimentazione magari ugualmente abbondante, però più sana. Sì. E in terzo luogo, la necessità di reinventarsi ogni giorno e quindi per un cinquantenne come me di restare, non dico adolescente, ma comunque giovane adulto. Dottor Aquilar, ecco. Lei che ha l'orecchio attento, nella descrizione che il dottor Confalonieri fa della sua convivenza e quello che invito a fare anche i nostri ascoltatori, perché anche sulle cose che noi riteniamo importanti, dal come descriviamo la nostra convivenza, dal come la raccontiamo che ci ha fatto bene, quali sono i vantaggi, riusciamo a capire qualche cosa di importante. Dottor Aquilar. Beh, certo, ci ricordiamo che il dottor Confalonieri gode di una confidenza efficace nella sua convivenza e scambia una serie di informazioni ed emozioni utili, perché poi alla fine tutto si racchiude nelle emozioni che vengono scambiate all'interno della convivenza e nella evoluzione di queste emozioni nel tempo, che come abbiamo ascoltato dai nostri ascoltatori, quelli che hanno telefonato erano quelli che erano contenti della loro emozione di convivenza. Possiamo immaginare che ce ne sono altri che non telefonano perché sono scontenti delle loro emozioni di convivenza. Certo, ma loro sono assolutamente invitati, come chi è felice, a chiamarci. Dottor Confalonieri vuole darci il suo consiglio. Allora, abbiamo detto i letti separati, l'attività fisica separata. Qua stiamo separando troppo, me lo fa notare anche un ascoltatore via SMS. Ma non vogliamo. Innanzitutto vorrei proprio lanciare un dibattito sull'ultima mezz'ora, vedere chi prevale. Vi sentite più sani o meno sani dopo che avete cominciato a convivere da sposati o semplicemente da compagni? Questo sul è importante. Piano fisico e sul piano psicologico lo facciamo. Io direi soprattutto sul piano fisico, che è quello su cui sono più preparato e quindi lancio quello. Aquilar. Sul piano psicologico mi auguro che tutti stiano un pochettino meglio. Ecco. Sul piano fisico vorrei capirlo. E poi un consiglio molto pratico. È chiaro che col tipo di organizzazione della vita che c'è attualmente, la cena è il momento che condividiamo ed è emerso anche dai messaggi e dalle telefonate. Ecco, io consiglierei proprio di evitare tassativamente i carboidrati a cena. Resta molto semplice, resta molto facile, ci facciamo un piatto di pasta, magari una pasta pronta, ci mettiamo poco a farlo, non ci porta via spazio. No, stop. Dedicherei la cena veramente alla preparazione della carne, che richiede più tempo, che richiede più attenzione, che è più sana da un punto di vista nutrizionale la sera, o addirittura... Scegliere anche proteine... Aspetti, arrivo, sono preparato. No. O addirittura alla preparazione di una zuppa piuttosto che di un'insalata mista, che magari ha richiesto una ricerca nel mercatino, dal fruttivendolo, dal supermercato, dall'amico, di quel particolare ingrediente, di quella particolare verdura, di quel particolare cereale, che la rende intrigante e nuova, la zuppa piuttosto che il piatto di verdura. Ecco, organizzarsi come coppia per avere comunque una cena carboidrati priva, che dal mio punto di vista poi presuppone un pasto invece a pranzo rapido e veloce a base prevalentemente di carboidrati, secondo me ci consente di ridurre il peso e di condividere comunque un momento fondamentale nella nostra relazione di coppia. Gianni da Udine, buonasera, anzi buongiorno, io ero già all'ora di cena. Buongiorno. Stavo già pensando stasera che cosa potevo mangiare con mio marito. E infatti mi ha messo in mente questa cosa anche a me un attimo, ma cioè, mi sento, come dire, coinvolto in un sacco di cose che avete detto, anche perché ho la fortuna di stare al telefono da quando ho cominciato praticamente. Allora, io cosa posso dire? Vabbè, diciamo così, convivo e ora sono sposato, da un anno e qualcosa, ma convivevamo da 15, abbiamo tre figlie. Ed è già che voi uomini dite da un anno e qualcosa, noi donne diremo da un anno, quattro mesi. Ti dico dal 5 giugno 2010, per cui bene, allora siamo ufficialmente sposati, ma non è che questo mi cambi, perché alla fine vivevamo già insieme, erano tre figlie, per cui insomma la cosa aveva già il suo divenire, no? Al di là di questo, è facile teorizzare tutto quanto, perché poi alla fine si cade sempre nelle stesse cose. Il dividere di cui parlavate mi piaceva, perché io ho avuto la fortuna, Rodò? Sì, siamo qua, Gianni. Ah, scusa. Ho avuto la fortuna, tutto sommato, di viaggiare molto con mia moglie, abbiamo condiviso un sacco di cose, anche nei momenti non propriamente positivi della vita di coppia, perché esistono, c'è poco da nascondere. Certo. Abbiamo continuato a viaggiare, abbiamo continuato a fare delle cose che ci piacevano, le facevamo insieme. Abbiamo cominciato poi, io ho ricominciato a studiare, ho fatto un po' di cose, abbiamo ricominciato a correre, ho invitato mia moglie a correre con me, ma non proprio con me fisicamente, perché comunque anche correre e fare attività fisica insieme comporta degli adattamenti, se si vuole fare bene dal mio punto di vista, che sì, non certo, è opportuno bisogna fare un altro tipo di organizzazione. Io ho cominciato a correre, ho cominciato a fare delle cose per cui ho cercato di coinvolgerla, poi abbiamo avuto la nostra terza bambina, lei dopo il parto ha ricominciato ad fare attività fisica, siamo arrivati a fare maratone a New York, abbiamo fatto delle cose assieme ma separati, nel senso che lei si allenava per conto suo, io mi allenavo per conto mio, anche perché insomma dovevamo anche tenere quindi, a bada un po' le tre bestie. Quindi Gianni, ma insomma, la convivenza per lei è stata assolutamente salutare. Ma sì, sotto certi aspetti sì, sicuramente sì, ma l'importante, che non è facile, è riuscire a convincersi di poterlo fare. Io ascolto un sacco di persone che mi dicono: ma come fate? E come facciamo? Facciamo che perché ci piace, è il piacere a mio parere che guida le azioni sia di coppia che di un singolo anche, per cui non è difficile sacrificare momenti, cercare di far di combinare, come diciamo in Friuli, cioè di combinare, di cercare di far stare dentro le cose, se è il piacere che ci muove, non diventa un sacrificio andare a correre, non diventa un sacrificio rimanere a casa con le bambine perché la tua compagna è andata a correre, perché tua moglie è andata a correre, a fare delle cose che le piacciono, perché poi sai che lei starà a casa per quando toccherà a te. Ma quindi Gianni, io spero che sua moglie sia all'ascolto, perché lei ha fatto una grande dichiarazione. Dottor Aquilar. Sono d'accordo, una grande dichiarazione d'amore ed è una grande dichiarazione di ottimismo rispetto all'idea della convivenza. E quando prima dicevo telefonano soprattutto gli ascoltatori che sono contenti, è perché il taglio della nostra trasmissione di oggi è più sugli aspetti positivi e quindi naturalmente queste persone che parlano poco, perché il più delle volte si parla degli aspetti negativi, dando per scontato che dopo un po' ci si debba annoiare. Non è affatto vero, perché le persone cambiano continuamente e quindi io mi annoierei se avessi di fronte a me qualcuno che è sempre uguale a se stesso e io fossi sempre uguale a me stesso. In realtà non è così. Se siamo attenti, sia gli uni che gli altri, a svilupparci, siamo nuovi ogni giorno. Silvia ci chiama da Torino, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Io ricalco un po' l'intervento dell'ascoltatore precedente, solo che io faccio coppia con mio marito da 24 anni e abbiamo 55-56 anni e abbiamo cominciato a fare sport con i bambini perché volevamo avviarli a uno stile di vita sano, sapere che sudavano e non avevano tanti grilli per la testa. E quindi ci siamo comprati le biciclette, poi i ragazzi hanno cominciato a fare sport per conto loro, uno ha scelto il rugby, l'altro ha scelto il canottaggio e noi siamo rimasti con le biciclette e allora abbiamo cominciato ad andare in bicicletta noi due, poi abbiamo cominciato a far nuoto, adesso una volta alla settimana andiamo a nuotare insieme la mattina presto e poi ognuno ha la sua giornata, noi due. E poi abbiamo anche una certa differenziazione, nel senso che abbiamo cominciato anche a correre, sì. Solo che mio marito ha dei problemi di ginocchia e allora a me è rimasta la corsa e a lui la bicicletta. Quindi vi siete un po' differenziati, però dottor Confalonieri voleva intervenire? Sì, è molto bello quello che sentiamo. È molto bella questa condivisione dell'attività fisica che poi però si diversifica in termini di percorsi. Quindi volevo dire soltanto due cose molto rapide e molto sintetiche. Dalla prima telefonata, obiettivi comuni attraverso percorsi diversi. È una regola dello sport e potrebbe essere una regola anche della vita di coppia. Esatto. La seconda, non spaventiamoci se per noi l'attività fisica non è così centrale. Proviamo a ritagliarle un piccolo spazio, cioè non vorrei che qualche ascoltatore si sentisse spaventato da tutte queste telefonate di gente che attraverso lo sport prova piacere. Non è così per tutti, però è importante ritagliare un piccolo spazio. I 150 minuti settimanali di cui si parlava a inizio trasmissione sono pochi, sono 20 minuti al giorno. Ecco, partiamo da questo obiettivo, 15-20 minuti al giorno, possiamo ritagliarceli tutti. Possono dare salute e magari piacere a tutti, anche se non c'è tutto questo entusiasmo per la condivisione di spazi più importanti. Essere e benessere. Da quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene. Che cosa vi fa stare bene della convivenza? 800 24 00 24, abbiamo in linea con noi Laura che ci chiama da Livorno. Buongiorno Laura. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamata. Ci racconti, che cosa le ha dato in più la convivenza? Allora, io ho conosciuto il mio partner attuale 6 anni fa in palestra, sì? A un corso di ballo. Ah, che fortunella! Sì, perché questi uomini non si trovano. Sempre noi sole ballerine, ma gli uomini sono molto rari. Sì. E lei se ne è acchiappato già subito. Me lo sono acchiappato subito. Non lo molli, Laura! No, ma figurati. Oltretutto, lui ha 14 anni meno di me. Caspita! Laura, dottor Aquilar, è l'uomo più giovane? Ah, può andare benissimo, l'importante è che ci sia coincidenza di emozioni e di obiettivi. Può Laura, andare benissimo. Allora, balla ed è più giovane, mi racconti per bene che qua... Allora, è successo questo, che appunto ci siamo incontrati in questa scuola, io avevo un altro partner che mi dava sempre buca, e ho detto vabbè, ora cambio, ne trovo uno migliore, e quella sera proprio l'ho trovato. Abbiamo iniziato a ballare insieme. Sì. Ho sentito in quel momento il profumo della sua pelle che mi è piaciuto tantissimo. Sì. E non ci siamo lasciati più. Guardi, io la lascio qua, Laura, perché con questa immagine abbiamo fatto puntata. Dottor Confalonieri. Beh, è una storia molto bella, abbiamo sentito quasi solo storie belle, su questo sono d'accordo col dottor Aquila, forse qualcosa vorrà dire, probabilmente chi ha problemi legati alla vita di coppia che gli ha fatto rinunciare a qualcosa sul piano personale ha fatto più fatica a chiamarci, ma sicuramente ci sono. Ecco, da questo punto di vista vorrei dire, amate molto l'attività fisica, oppure siete molto attenti a tutto quello che è l'aspetto alimentare, la salute della vostra vita, la salute delle vostre abitudini, e andate a convivere o sposate qualcuno che è molto diverso. Attenzione, cioè il benessere è sempre globale, sì. E probabilmente passa anche, ma proprio anche il vostro benessere fisico, anche la vostra salute, anche le vostre prospettive di vita passano a questo punto anche da una rinuncia almeno parziale a quelle che sono le vostre convinzioni. Quindi un po' meno di sport, un po' più di vizio per andare incontro al vostro partner, vi fa stare meglio psicologicamente e probabilmente allunga anche le vostre prospettive di vita e di salute. Dottor Aquilar, anche da parte sua un consiglio, magari consiglio dedicato alle coppie che non sono intervenute, proprio perché magari non avevano esperienze belle da raccontare, ma un po' di difficoltà. Intanto potremmo dire di stare sempre attenti alle nostre emozioni, che sono più intelligenti di noi e che ci danno delle informazioni che se noi le seguiamo nella maggioranza dei casi sono assolutamente funzionali. Poi magari dedicheremo un'altra trasmissione a quelli che hanno avuto delle esperienze di convivenza meno felici, ma il concetto rimane quello: io posso avere un'esperienza di convivenza meno felice e quindi la interrompo, ma sono progettato geneticamente per costruirne poi un'altra, per cui poi alla fine, aumentando le nostre competenze, miglioreremo anche la nostra capacità relazionale in coppia. Gabriella da Rapallo mi scrive: della convivenza mi piace molto tornare, ma per farlo devo ogni tanto andare. Noi abbiamo in linea, a proposito del dottor Confalonieri, ci suggeriva, no, come preparare una cena, per magari, io aggiungerei anche due candele al venerdì sera, al sabato sera, ogni tanto una cenetta romantica, non, che dice? Ma un contesto elegante e curato secondo me è fondamentale. Però, mi raccomando, piano con il sale, eh? Ne parliamo col professor Alberto Morganti, presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, che si trova a Roma, dove si sta svolgendo un convegno molto importante. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, alla coppia, la coppia deve comunque aggiungere l'armonia, alcuni ascoltatori mi hanno messo anche un po' di pepe, ma noi suggeriamo alla coppia, ma anche ai single, di andare piano con il sale. Perché, dottore? Perché, ma professore? Questo senz'altro, io sono favorevolissimo all'idea della cenetta romantica, però con una riduzione dell'apporto del sale che fa bene a tutta la coppia, a entrambi nella coppia, perché questo è un elemento che nei nostri congressi viene dibattuto, e lo è molto anche in questi giorni qui a Roma per il 28° congresso della Società Italiana dell'Ipertensione, di cui sono il presidente, perché la riduzione del sale fa bene. Una riduzione ragionevole del sale alimentare è raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché si accompagna a una importante riduzione degli eventi cardiovascolari, e basta poco in questo senso. Soprattutto bisogna che si capisca come il sale che noi introduciamo è largamente in eccesso rispetto alle necessità del nostro corpo. Abbiamo fatto recentemente uno studio su larga scala in Italia e si è visto che c'è un consumo che è circa doppio del necessario, 10 e più grammi di sale al giorno ingeriti rispetto ai 5 che sono necessari per la nostra buona salute. Quindi la prima regola è quella di ridurre l'apporto del sale che facciamo nella preparazione dei cibi e anche nell'aggiunta a tavola del sale, perché è sicuramente superfluo e la sua riduzione, ripeto, può risolversi in senso molto favorevole per la salute cardiocircolatoria dei pazienti e anche delle persone comuni, anche dei non malati. Allora, possiamo, dato che oggi abbiamo dedicato la nostra trasmissione alla convivenza, alla coppia, possiamo cercare di ridurre il sale a tavola giocando in coppia, un'alleanza. Io ringrazio il professor Alberto Morganti, presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, che so che deve scappare, tornare al convegno, anche noi dobbiamo scappare, chiudere. Ringrazio il dottor Confalonieri, il dottor Francesco Aquilar, voi che siete intervenuti, vi ricordo che potete anche continuare la vostra discussione sul nostro profilo Facebook, Laura Vanossi in redazione, Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica. Se volete avere qualche idea su come ridurre il sale, andate sul sito di Radio 24 e digitate sale, un pizzico in meno, tanta salute in più. Buon weekend da Nicoletta. Essere e benessere.